mare ha fermato la sezione dei pompieri vivi giù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed a spese del marchese han comprato le divise con felucche a larghe tese e pennacchi rossi e blu. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. India scopa addestrativo, in paese hanno incendiato, il reparto si è schierato e ha gridato e titturra. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri di Viggiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Viggiù. Affrontarono l'incendio con le pompe verso sera, però l'acqua in meno c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ma il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintori. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed in meno di un secondo nel villaggio già bruciato, tutto in fumo se n'è andato il clamore dei pompieri. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri di Viggiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi